gloria, manchi tu nell'aria, manchi da una mano che lavora piano, gloria sotto fianchi, la mattina nasce un sole, entra odio nel cielo.